Oh!

tormenti simili. Il giovani ardore e la dentro col facile sorriso dell'amor e dell'amor dal di che disse vivere io voglio a te fedela sì dell'universo in me io vivo io vivo quasi io vivo quasi in cielo io vivo in io vivo quasi in cielo, sì, io vivo quasi in cielo, io vivo quasi in cielo. Del commise fu la mia signora perché vuole dare che quanto il cuore possiede che mai sento lo spigli grande a vivere qui stringhi e facevi quel silenzio imposto imposto or va bisogna a Parigi or vanne andrò a Parigi questo colloquio non sappia la signora tutto va questo Ma il dottore a sperar pure me scorreremo de corsi a fanni come ne sarai la tua salute rifiorirà. Oh, Thank you. 北京人民广播电台古典音乐有限频道，有限调频98.6兆赫，欢迎收听。声的交响，聆听舞蹈与旋律的对话，请进北京音乐广播古典音乐频道有限调频98.6兆赫歌舞剧场，每天10点、22点播出。 欢迎继续收听歌舞剧场。刚才我们听到的是威尔第的歌剧《茶花女》当中的精彩选曲。下面让我们分享几首经典的芭蕾舞音乐。亚当的芭蕾舞剧《四魔鬼》当中的选曲，由理查德·布宁格指挥伦敦交响乐团演奏。 Thank you.